Francamente non ho capito perché certi esponenti della sinistra si sono incazzati o stupiti o semplicemente hanno protestato quando il presidente Scalfaro si è lasciato andare alle note dichiarazioni sull'opportunità di finanziare la scuola privata cattolica, vista la sede in cui parlava e visto anche il fatto che per ora di scuole private laiche praticamente non ce ne sono, e quelle che ci sono, se dovete dare retta a un vecchio insegnante con 25 anni di esperienza nel ramo, proprio lasciatele stare. E che Oscar Luigi Scalfaro fosse, se non proprio un baciapive, che non è una bella cosa di dire di un presidente, un figlio particolarmente devoto di madre chiesa, che si considerasse e si consideri ancora nudo, senza il distintivo dell'azione cattolica, e che prima di essere presidente della Repubblica Italiana fosse presidente dell'Associazione dei Devoti della Madonna di Fatima, lo sapevamo già prima di eleggerlo, perché noi eletto non l'abbiamo, che la Chiesa italiana chieda da sempre che le sue scuole siano finanziate a spese del pubblico erario, lo sa chiunque si è occupato negli ultimi 40 anni di questioni scolastiche. Che quello di esaudire tale richiesta, garantendosi la gratitudine e imperitura dei vescovi, sia da sempre il sogno proibito dei ministri democristiani della pubblica istruzione, è pure abbastanza noto. Lo stesso Oscar Luigi, se non mi sbaglio, deve aver fatto qualche timida proposta in tal senso quando ha rivestito quella carica. Ma finora si è sempre trattato appunto di un sogno proibito, perché è davvero molto difficile per chiunque eludere una volta tanto il dettato del secondo comma articolo 33 della Costituzione, secondo il quale, virgolette, enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione senza oneri per lo Stato, chiuse le virgolette. E per tutta la durata della Prima Repubblica la Democrazia Cristiana e i suoi satelliti hanno sempre avuto la maggioranza sufficiente per finanziare quante istituzioni scolastiche, clericali e paraclericali volessero, ma non quella per modificare, soprattutto su un argomento del genere, un articolo della Costituzione. Per cui si sono limitati a lasciare andare in malora la scuola pubblica nel sereno convincimento che questo fosse il modo migliore per giovare agli imprenditori di quella privata. Se nonostante tutto il settore privato ha ancora un'importanza relativamente scarsa nel sistema educativo del Paese, è solo perché gli imprenditori in questione si caratterizzano, salvo eccezioni, per un livello culturale ad alto zero e un atteggiamento economico che ricorda più quello del rapinatore da strada che quello del manager contemporaneo. Provate a chiedere in giro tra quanti hanno creduto ad assicurare ai propri figli un trattamento in qualche modo privilegiato al modesto prezzo di 1.000.000 lire al mese e ne sentirete di belle. Ma non è questo, naturalmente, il punto. Il punto è che l'uscita del Presidente della Repubblica è stata accolta con insospettato entusiasmo da tutto quel composito schieramento di destra avviato a quanto si dice al trionfo elettorale. Io vi ho già detto che personalmente non ci credo, ma vedremo poi. E non è un caso, direte voi. In fondo quella del privato, del rifiuto delle ingerenze statali, della necessità di affidare la libera iniziativa alla gestione di servizi tradizionalmente considerati sociali, è una delle bandiere che costoro sventolano con maggior tracotanza e maggiore entusiasmo. Insomma, Berlusconi vuole privatizzare praticamente tutto, compreso l'esercito, se non mi sbaglio. Fini sarà postfascista finché vuole lui, ma sa benissimo che la pronta acquiescenza alla richiesta di privilegi da parte della Chiesa è sempre stato lo strumento che ha permesso ai fascisti storici di stabilizzare il loro potere. E quanto a Bossi è difficile che uno che è richiesto di precisare la propria posizione su qualsiasi possibile argomento risponde sempre soltanto ad essere contro lo statalismo, poi possa schierarsi a favore della scuola statale, soprattutto se l'unica scuola che conosce lui è la scuola Radio Elettra. A me, vi confesso, spiace un po' che l'abietto Pannella sia riuscito a infilare in questo orribile schieramento alcuni galantuomini che nel passato si erano distinti proprio nel campo della difesa della laicità della scuola, come il mio amico Strickleavers, ma non sono cazzi loro, e per il loro stesso bene a costoro auguro caldamente di non farsi eleggere. Comunque, visto che questa volta con tutta probabilità chi vincerà la possibilità di cambiare la Costituzione ce l'avrà proprio, Può anche darsi, facciamo le corna, che quello che il movimento cattolico non ha ottenuto in 50 anni in nome della libertà religiosa possa ottenerlo inopinatamente in nome della libera imprenditorialità. Poi si troverà sempre un qualche onorevole D'Onofrio disposto a spiegare. Avete presente l'onorevole D'Onofrio? Da un po' di tempo allinea in televisione con una frequenza veramente eccessiva. Si troverà sempre qualcuno come lui disposto a spiegarci che finanziare le scuole cattoliche significa aumentare la libertà di scelta degli utenti e che questo è il vero liberalismo. Osservazione che avrebbe fatto venire le convulsioni a Cavour, e sorvogliamo pure sul fatto che gli alleati dell'onorevole D'Onofrio la scuola pubblica vogliono abolirla, che come atteggiamento liberale e come tecnica per aumentare le possibilità di scelta non è affatto male. Ma pazienza, anche quella dell'imprenditorialità a modo suo è una religione con i suoi dogmi, e poi stringi. Dal punto di vista dei cattolici si tratta sempre di farsi dare dei quadrini. E la loro organizzazione, in 2 millenni di storia, ha sviluppato a fondo la teoria che qualsiasi cosa abbia detto a suo tempo quel tale, servire contemporaneamente Dio e Mammona è perfettamente lecito. Sono gli altri membri del popolo della libertà, di quello che si fa chiamare il popolo della libertà, che dal punto di vista della coerenza ideologica mi preoccupano un po'. Perché chiedere allo Stato di cacciare soldi a favore di qualsivoglia iniziativa privata, non cessanti, è una forma di assistenzialismo bello e buono. E l'assistenzialismo, in teoria, dovrebbe essere la bestia nera di costoro, il loro massimo nemico, la summa totius iniquitatis. Ma naturalmente bisogna distinguere. Loro non sono mica contrari all'assistenzialismo tout court. Ad assistere noi non ci pensano nemmeno, perché se ci ammaliamo è colpa nostra, ma farsi assistere loro, è tutto un altro affare. Va bene essere liberali, anzi liberal-democratici, ma quando si tratta dell'affare, porca loca si arraffa. Tra i principi e il contante, certi liberal-democratici preferiscono sempre il contante, tanto a difendere i loro principi, non so, le leggi del mercato, le regole della corretta imprenditorialità, ci pensano già quei cretini dei loro avversari.